lui e lei a letto nudi, lui dorme, lei è sdraiata, ha un fiore infilato nella vagina e lo innaffia con le sue lacrime, poi prende a strappare i petali uno a uno. Piano A, mamma. Piano B, non mamma. Piano A, mamma. Piano, pianissimo. Ci vuole molta cura. Dare acqua, ventilare, difendere dagli attacchi nemici, procedere con la classificazione, tenere a bada i parassiti, la classe peggiore. Se non sei come loro, le bestie ti entrano dentro, ti scavano, si prendono tutto quello che hai, ti imbrattano nei loro scarti, sostanze appiccicose che generano funghi, muffe, altri incubi. I parassiti sono la classe da eliminare. Procedere con la numerazione, tanti, troppi, per pensare di farvi fuori tutti, una strategia d'azione è necessaria, colpirne uno per spaventarne milioni, come quando bruci una formica e tutte le altre cambiano strada. Riprende a strappare i petali del fiore, piano A, mamma. Piano B, non mamma, piano A, mamma, piano shh. In queste cose ci vuole pazienza. È tanto che aspettiamo che venga domani. Piano americano sul nostro bersaglio, il parassita più grasso, con la bocca più larga, primo piano, il parassita avanza, circondato da una scorta volante e armata, gusci, antiproiettili, antenne tese. Meglio farlo dove e quando tutti possano vedere. Camera fissa, piano reale, terrore e guerriglia. Prima che uccidere sembri troppo brutto, anche a me. Lui si sveglia come da un incubo e scopre il pubblico per la prima volta. Buongiorno, caro. Siamo circondati, lo so. Andiamo via, non si può. Lui cerca di scendere dal letto, non riesce. Perché non si può? Siamo incollati al letto. È un complotto, è un confronto. Dovevi svegliarmi subito. Che cosa vogliono? Cosa gli hai detto? Niente. Hai detto qualcosa di me? Cosa hai detto di me? Niente. Potrebbero esserci delle cinci, ci hai pensato? Ci sono bestie dappertutto. Io non ti conosco, io non ti ho mai visto prima. Ma come no? Dobbiamo andarcene da qui. Qui ci denunciano, devo alzare, devo così, non riesco a pensare. Dove sono i vestiti, i requisiti? E le armi ce le daranno al momento opportuno. Lui cerca nuovamente di scendere dal letto, non ci riesce. Ma perché non si riesce ad andare via? Dimmelo tu. Hai sempre una spiegazione logica per tutto. Sono loro. È con gli occhi che ci vengono incollati qui. Ci guardano. Hai sempre idee così interessanti. Digli di provare a guardare da un'altra parte. Io provo ad andare via. Se funziona, torno a prenderti. Ah sì, bene. E dove mi porti? Beh, da un'altra parte. A me piace qui, da questa parte. Andiamo via di qui! Ma tu da che parte stai? Non è un confronto allora, è una specie di processo! Inesorabile, di invischiamento, di appesantimento. Fa parte dell'addestramento, ci dobbiamo abituare. Da domani avremo gli occhi del mondo puntati addosso. Copriti, che così si vede tutto. E copriti, ma copriti tu! Anzi, nasconditi, che è la cosa che sai fare meglio. E vieni sotto anche tu. Non mi va che ti vedano così, troppo facile giudicare, così nudi in un letto, sembriamo tutti dei criminali, degli assassini. Ma non siamo così. Gliel'hai detto questo? Diglielo! Perché non glielo dici tu? Fai un bel comunicato, dai. Di qualcosa di significativo. Ti ascoltiamo. Vaffanculo! Beh, non è un granché come comunicato. Una volta parlavi meglio, avevi tante idee, cambiare il mondo. Hai qualche idea? Beh, interessante. Senti, io cerco di dormire. È il tuo turno di stare sveglio. L'incubo è il piano orizzontale. Ho fatto un sogno. Era domani e tu non c'eri. Sparavo alla testa del parassita e il proiettile lo colpiva dritto in fronte. La testa si spaccava come un guscio e dentro c'era un'altra testa. Io sparavo ancora e dentro c'era un'altra testa e così via per non so quanti spari. Mi facevano male le mani. Eravamo tutti e due lì, immersi nei pezzi delle sue teste. Lui sembrava dispiaciuto e mi diceva perché invece non parliamo un po'? E allora facevo per parlare, ma le mie parole ce le aveva in bocca lui e me le sparava addosso con la mia voce, le mie parole nelle sue bocche, parole vuote, senza testa. Guarda, ancora mi tremano le mani, non posso sparare più nemmeno un colpo. Non puoi o non vuoi? Non ci riesco. Guarda le mie mani, siamo arrivati fin qui. Vuoi tirarti indietro adesso? Mi dispiace, non ce la faccio. Pensavo di farcela, ma no, non uccido un uomo, non è un uomo, è un parassita. Poi però penso che è un uomo. Tu pensi troppo! È sempre stato questo il tuo problema. Ascolta, ascolta, ascolta, ascolta. Ho un piano alternativo per domani. È un piano reclinabile, un comodo piano orizzontale. Lui indica lo spazio. Immagina che la camera parte da là, viene verso di noi. piano medio su noi due nel letto, che parliamo di pace. È un bed-in, come un sit-in, ma nel letto. Io e te come John Lennon e Yoko Ono. Ma per favore, ce ne staremo qui distesi. Se stiamo fermi, nessuno potrà mai accusarci di appartenere a un mondo tanto imperfetto. Se stiamo fermi, nessuno ci accuserà di aver contribuito ad aumentare il tasso di idiozia, di ingiustizia. Ci sfiliamo da tutto, prendiamo una nuova posizione. Il nostro può essere un piano morbido a due piazze, renderà più sopportabile questa desolazione. Lasciamo stare, vuoi? Non facciamo male a nessuno, vuoi? Così tu fai male a me. Vuoi farmi male? Non eri tu che volevi fare delle cose insieme? Beh, sì, ma più insieme di così, ma non questo, non più. Ah, vuoi che ti sostituiscano? Che mandino un altro qui con me al posto tuo? Se ne mandano un altro ci scopi? Certo! Anche se è un mostro, anche se è un vecchio! Se ha le mani ferme, perché no? Le parti del letto. Lei, aiutami a rifare il letto, questo lo puoi fare. Tira il lenzuolo dalla tua parte, ancora di più, tira, adesso fai l'angolo. Controlla che non ci siano pieghe, batti il cuscino così. Battilo! Per renderlo più uniforme, più morbido, batti più forte, e ti faccio paura quando faccio così. Guarda il cuscino, ti ricorda qualcuno? Uguale a te, molle, tutto dalla parte della testa, molle. Andrà a finire male, lo so, e non sarà servito a niente. I parassiti, le bestie, come loro si rigenerano all'infinito. Hai paura? Un vero e proprio terrore, sì. Non si è mai visto un terrorista che si terrorizza da solo. Ma perché no? Perché no? Sei sempre così sicura di tutto? Vorrei che condividessimo qualche dubbio, magari per convincerci insieme. Scopriamo? Forse domani è troppo presto. Aspettiamo che cambino le cose da sole. Niente resta com'è. Ma tu vuoi aspettare? Aspettare un cambiamento è folle. Come aspettare che l'acqua bolle? Che l'acqua bolla? Congiuntivo. A me ne frego! Meglio l'acqua bolle, suona meglio, è una specie di gioco, come le bolle di sapone, ecco. E mentre giochi con le bolle, ti sei distratta e l'acqua sta bollendo, l'acqua c'è riuscita, ha cambiato stato. Se l'acqua riesce a cambiare stato, possiamo farlo anche noi. Basta distrarci e bolliremo. Ci alzeremo da qui e ce ne andremo in un altro stato. Come sarebbe vivere all'estero? Ti ho detto di non venire dalla mia parte finché non è anche la tua. Voglio scusarmi con te di essere stato vigliacco, lunatico e razzista. Borghese, in parte, un po' cattolico. Ho seguito qualche moda. D'ora in avanti non cambio più idea. Lo vedi quanto sono cambiato? Potrei anche sparare se volessi. E allora spara! No, spara! No! Terrorismi da camera. Lui. Si sporge dal letto e finge di afferrare qualcosa dal pavimento che tiene chiuso con le mani in conca. Guarda qua. Guarda cosa ho trovato. Che cos'è? Chissà se ce ne sono degli altri. Che cos'è? Uno scarafaggio. Non è vero. Apri la bocca. Dai, apri la bocca. Smettila. Ah, dai, non boccone. Ma che schifo. Apri la bocca, ho detto, e te la apro io, vaffanculo. Tu dici troppe parolacce. Fotiti. Stai ferma. Tanto non puoi andare da nessuna parte. Lui le afferra la mascella e gliela tiene aperta. No, no, no, no, no. Tieni aperta questa bocca. Lei si libera dalla presa. Non ci credo che hai un setto in mano. Ah, adesso vedi, lui le serra nuovamente la mascella. No, no, te lo ficco dentro a forza. Lui le mette qualcosa di immaginario in bocca e gliela tiene chiusa. Mandalo giù, dai, da brava, mandalo giù. Lei tossisce, singhiozza. Guarda, guarda come sei ancora tutta tesa. Se mi tocchi ancora, t'ammazzo. Hai avuto paura, eh? Non lo farei mai più, eh? Mai più, gli insetti no. Ma non c'era, lo sapevi che non c'era, stronzo bastardo. È così che volevi trasformarmi, con la tortura, eh? Tortura esagerata. È molto bella quando eri tutta tesa. Sei patetico. Un torturatore patetico e psicopatico che per farselo venire duro ha bisogno di. Lui non la lascia finire, prende un cuscino, lo tiene premuto sulla faccia di lei. Adesso sono ancora patetico, eh? Mi hai stancato poi questa cazzo di violenza e basta! È così che ti piace, eh? Solo così! Come sta andando? Ti faccio paura, eh? Lo vedi cosa cazzo mi costringi a fare, stronza di una pazza che sei! stata legittima difesa, eh? L'avete visto tutti. Bisogna difendersi da persone del genere, persone violente, pericolose per la società. Lo pensavi anche tu che bisognava fare così per cambiare le cose? Sei contenta? Il nostro primo cambiamento sei stata tu. Adesso che sei morta, sarà la posizione? Sarà che sei bella? Sembra che hai tutte le ragioni del mondo. Stai lì buona, morta. E come ti muovi sbagli. Non solo tu, e anch'io. Io è tutta la vita che lo penso. Come mi muovo sbaglio. Per quello ho sempre cercato le parole giuste, le sto ancora cercando. Parole che producano effetti reali. Fammi pensare a cosa ne siamo. Qualcosa come siamo come santi. Sì, questo potrei dirlo al processo. Signore, un essere umano, per essere umano, deve avere per forza, nascosto da qualche parte, almeno un francobollo di santità, uno spazietto dell'essere in cui è affidabile al 100%. Il mio è questo. Il letto. Sono un terrorista da camera. Di tutte le cose che conosco di me, ho sempre trovato più interessante la parte di me che non fa. Quando non faccio niente, ho quell'aria contemplativa che si vede che penso. Sdraiato, fasciato, con le menti adagiato, al massimo seduto, rifletto, fiaccato da tutte le brillanti idee che mi vengono per cambiare il mondo, ma lei non lo capiva. Che per esempio io quando dormo, non dormo, io scelgo di mancare uno per uno tutti gli appuntamenti della vita. È una cospirazione anche questa, ma lei non lo capiva. Restiamocene tutti a letto. Se nessuno di noi lasciasse il letto, saremmo troppi da far alzare, una massa di corpi stesi e dissidenti. Sono tutto potenza io, ma lei non ha mai capito la mia forza, il potere delle cose che non si muovono, la potenza delle larve.